Sport e motori con Massimo Di Scienza. Le 16:35 minuti 50 secondi, buon pomeriggio in questa domenica amara per il colore rosso Ferrari, domenica amara per la scuderia Ferrari che ha perso il titolo del mondo, l'ha vinto Sebastian Vettel, o per meglio dire, a mio avviso l'ha perso Fernando Alonso insieme alla scuderia Ferrari. Ne parleremo fino alle 17 con i nostri compagni di viaggio. Carlo Cavicchi, direttore di Quattro Ruote, buona domenica direttore, ben trovato. Buona domenica a tutti. E Carlo Vanzini, inviato di Sky Sport, ciao Carlo, buona domenica. Ciao, buona domenica, buon pomeriggio a tutti. E ovviamente vogliamo sentire le vostre voci all'800 24 00 24 e i vostri sms al 349 238 6666. Sebastian Vettel è il più giovane campione del mondo di Formula 1 della storia, ha vinto il titolo a 23 anni e 4 mesi, lui è del mese di luglio, ha vinto, ha conquistato il titolo con 4 punti di vantaggio su Fernando Alonso grazie alla vittoria di Abu Dhabi. Primo Vettel, secondo Hamilton, terzo Button, soltanto settimo Fernando Alonso. Vogliamo sentire le vostre voci, vogliamo sentire i vostri commenti, prima però ascoltiamo l'analisi di quello che è accaduto, incredibile, ad Abu Dhabi del team principal della Ferrari, Stefano Domenicali. Purtroppo è andata male, quindi è chiaro che non possiamo essere contenti. In questo momento c'è ovviamente delusione, come giusto che sia, complimenti a chi ha vinto. Le analisi le faremo con calma, anche se sappiamo cosa è successo. È successo che le gomme morbide pensavamo avessero un degrado più forte, noi avevamo avuto problemi di quel genere per quello che abbiamo marcato Webber. Purtroppo la safety car ha messo in mezzo delle macchine che sono andate molto veloci e quindi è andata male. Mi dispiace, però dobbiamo mantenere alta la testa perché la squadra ha fatto un grandissimo lavoro, ha tenuto fede all'impegno fino in fondo, quindi vorrei che venisse fuori questo messaggio di grande serenità in un momento ovviamente difficile, perché quando si perde fa sempre male, però è in questi momenti che bisogna avere la classe di riconoscere certe cose e di lavorare per il prossimo anno. Queste le parole, l'amarezza, ma anche il fair play, dobbiamo dire, di Domenicali subito dopo l'arrivo al microfono di Rai Sport. Allora sentiamo i commenti dei nostri compagni di viaggio. Carlo Cavicchi, direttore di Quattro Ruote. I titoli qui dei siti internet sono praticamente tutti quanti listati a lutto. Disastro Ferrari, delusione Ferrari, amarezza Ferrari, incredibile. Insomma, qual è la tua analisi di quello che è accaduto? È normale che questo succeda. Io, al di là di fermarmi sulla strategia, che è indubbiamente una cosa che a freddo è facile fare, il momento è sempre difficile, vorrei dire che quello che è mancato oggi è che la Ferrari doveva fare quello che ha fatto la McLaren, cioè doveva venire per vincere il titolo attaccando e non difendendo, e questo purtroppo è mancato. Alla fine la storia cose in genere le fa pagare. Hamilton perse il suo mondiale così nell'ultima gara, facendo una gara di difesa. Non è facile, voglio dire, fare i commenti adesso è la cosa, essere crudeli è la cosa più facile. Secondo me la Ferrari ha avuto un massa inesistente, assolutamente inutile nelle ultime gare, e questo è pesato moltissimo fino alla fine. Se noi guardiamo la coppia McLaren, come si è comportata, quelli limiti della macchina, che era la macchina messa peggio la McLaren, però è quella che ha avuto i piloti che hanno cercato di darci sempre l'anima. La Ferrari ha corso solo con Alonso per troppo tempo, è un pilota solo, alla lunga è normale che ci sia una volta, dopo aver fatto 5-6 gare di fila straordinarie, che abbia una gara che rende di meno. Ecco, rompere i giochi a dire qualcosa, è mancata la seconda macchina, è la stessa tattica che si è vista dal via di Alonso, cioè la gara di chi deve fare i conti, farsi passare subito da Button, tanto bisogna tenere dietro Webber, tutto sui calcoli in Formula 1 è sempre molto difficile. Ci voleva maggiore spregiudicatezza anche secondo te, Carlo Vanzini? Ma sono assolutamente d'accordo con col direttore Cavicchi, perché l'intervista che ha rilasciato Fernando Alonso prima della partenza era abbastanza significativa, perché Alonso ha detto: beh, non ci sono problemi, anche se perdo la posizione su Button comunque sono davanti a Webber e la posizione va bene così, quindi non ci sono problemi, possiamo andare fino al traguardo, l'importante è stare davanti a Mark Webber. Chiaramente la safety car ha creato quella confusione, nessuno si è messo a guardare i tempi di chi è andato sulla gomma dura, quindi Rosberg e Petrov, perché lì la Ferrari non è che doveva mettersi in marcatura su Mark Webber, ma doveva capire che nel momento del cambio gomme Gomez si ritrovava in pista, noi tra l'altro commentandola via web avevamo notato che Petrov stava facendo le migliori prestazioni, comunque anche ritardando il pit stop si sarebbe ritrovato Petrov e Rosberg davanti perché stavano andando più forte. È vero quello che ha detto Stefano Domenicali, non per giustificare la scelta assolutamente, ma è vero che venerdì, quando abbiamo fatto l'analisi delle prove libere, la Ferrari con gomme morbide aveva un passo gara disastroso, quindi probabilmente hanno visto Webber che andava sulla gomma dura, sapevano che sulla distanza erano messi peggio con la gomma morbida, sono andati anche loro sulla dura convinti di fare la mossa giusta, senza calcolare Petrov e Rosberg e poi alla fine anche Kubica. Però è vero che se c'è stato un atteggiamento più a difendersi che non ad attaccare, ma lo dicevamo anche l'altra volta, secondo me la gara decisiva, anzi l'attimo decisivo di questo mondiale, è stata la qualifica del Gran Premio del Brasile, dove la Ferrari era più forte secondo me della Red Bull sul passo gara. Fernando Alonso, sempre ai microfoni di Rai Sport, sentiamo anche la sua voce. Dalla partenza partito bene, senza grossi problemi, ma troppo forte la McLaren, quindi difficile lì, e poi abbiamo avuto troppo graining con le morbide e poi con le dure. Girare sempre dietro un'altra macchina distrugge un po' le gomme, quindi tutto sommato gara difficile. Per il momento Webber andava forte, Felipe penso ha fatto il pit stop per cercare di essere davanti, non era davanti, quindi il pericolo che Webber ci sorpassasse era molto reale, quindi abbiamo coperto quella posizione. Quando copri una posizione lasci scoperte altre, la sorpresa è stata quanto per la Renault e la Mercedes e non abbiamo potuto farlo. 349-238-6666 per i vostri messaggi SMS. Direttore Cavicchi, ti aspettavi qualcosa in più da Alonso o ha fatto il meglio che poteva? No, secondo me Alonso bisogna fare solo i complimenti per la stagione che ha fatto. Ha avuto una prima parte di anno con diversi problemi, una seconda parte favolosa. Il finale secondo me è tutto il sistema Ferrari che è andato in difesa. Oggi dare la colpa a uno sarebbe oltretutto impietoso, e anche dare la colpa a Massa è impietoso, sia chiaro. Massa oggi ha dato quello che oggi ha dato per tutte le ultime gare, quindi un apporto inutile. Questa è stata un po' la Ferrari, appoggiata su un solo uomo, tante volte va bene, è andata bene, incredibile, alla squadra che ha peggio gestito i piloti, ma... indubbiamente ha vinto il pilota, se vogliamo dire il pilota migliore, nel senso ha fatto 10 pole, ha vinto tante gare, è stato sempre protagonista, ne ha perse tante vincendo, non dimentichiamo che lui in Corea ha rotto a pochi giri dalla fine, che se non rompe quel motore lì aveva 25 punti in più e Alonso 8 in meno, quindi era messo benissimo. Diciamo che alla fine un campionato così bello con tanti veri protagonisti è finito che ha vinto il migliore. Ha vinto il migliore Carlo Manzini? Secondo i numeri no, perché non è mai stato al comando nel corso della stagione. Io guardavo un po' le statistiche, perché poi a me piacciono, e guardavo che nel 64 era già successo con Surtees vincente all'ultima gara e mai in testa al mondiale su Graham Hill, e nel 76, insomma, probabilmente i meno giovani si ricorderanno quell'anno per il rifiuto di gareggiare, poi altre polemiche alla gara del Fuji dell'ultimo Gran Premio di Niki Lauda con Ferrari, e vincere il mondiale fu Hunt su McLaren grazie a un terzo posto, quindi diciamo siamo davanti a qualcosa, non dico di inedito perché è già successo, ma qualcosa di clamoroso. È vero che nel corso della stagione Sebastian Vettel ha buttato via punti pesanti non per colpa sua, come ad esempio il primo Gran Premio in Bahrain, quando ha avuto un problema alla valvola, quando ha avuto un problema alla candela sulla sua macchina, è stato infilato da Alonso, Massa e da Hamilton, ha chiuso quarto, ha rotto il motore in Corea perché sennò sarebbe stato lui il leader del mondiale al posto di Fernando Alonso, quindi ha avuto tanti problemi non per colpa sua, ha avuto dei problemi per colpa sua, per errori come a Spa quando ha speronato Jenson Button, però diciamo che è stato nel corso della stagione non quello più costante, ma è quello che alla fine ha avuto ragione, perché è stato il più forte nell'ultima parte della stagione. Se andiamo a vedere le ultime gare, non avesse rotto il motore in Corea le avrebbe vinte tutte lui. Quindi nel momento decisivo è riuscito a dare il 101%. Ritorniamo dopo il traffico proprio per ascoltare anche la voce di Sebastian Vettel e la voce del presidente della Ferrari, Luca di Montezemolo. Sport e motori. 800 24 00 24, poi gli sms al 349 238 6666. Di Formula 1 ovviamente continueremo a parlare nel corso del pomeriggio di Radio 24 anche con Carlo Genta, e a tempo di sport sentiamo la voce del neo campione del mondo di Formula 1, Sebastian Vettel. Non sapevo veramente nulla fino a quando non ho attraversato la barriera a scacchi. Gli ultimi 10 giri veramente non sapevo, il mio tecnico mi dava dei consigli giro dopo giro e mi aiutava a portare a casa la macchina. Pensavo, ma perché è così nervoso? Si vede che devo essere messo in una bella posizione. Poi quando ho attraversato il traguardo alla radio è stato molto silenzioso dicendomi, ah, sembra messo bene, dobbiamo aspettare fino alla fine delle altre macchine. Insomma, pensavo, ma cosa intende? In quanto non avevo visto gli schermi, semplicemente volevo essere certo di non distrarmi, volevo focalizzarmi proprio su me stesso. E poi la radio mi ha urlato dicendomi che avevo vinto il campionato del mondo. E questa è la soddisfazione enorme, le lacrime le abbiamo viste sul podio di Sebastian Vettel. Carlo Cavicchi, secondo me è stato anche molto sottovalutato Vettel alla vigilia di questa gara. Magari c'era un po' il retropensiero sia in casa Ferrari che anche da parte di Webber di dire, vabbè, Vettel con tutto quello che ha combinato quest'anno vuoi che tiri fuori la gara della vita proprio ad Abu Dhabi, secondo te? No, secondo me la gara della vita non l'ha tirata fuori oggi perché ha fatto la gara che doveva fare, che potesse vincere lo sapevano tutti. Io vorrei dire perché ho detto che secondo me ha vinto il migliore, perché secondo me quando alla fine vince quello che ha fatto più punti, che ha vinto più gare e ha fatto più pole position, beh basta insomma per dire chi deve vincere. Se non è migliore lui, insomma i numeri. Voglio dire, poi alla fine andiamo e possiamo raccontarci quello che vogliamo, è vero, non è mai stato in testa per una serie di concause, ma alla lunga poi ha avuto la squadra dalla sua. Ha combinato errori, ma a 23 anni, viva Dio, se non combina errori uno a 23 anni, quando li combina? Però è stato freddo, cioè ha avuto anche l'opportunità di fare quello che sa far meglio, cioè di correre sempre per vincere, e lui sappiamo che è come, un po' come Hamilton, sono quelli quando corrono per vincere danno molto di più di quando debbano fare altri calcoli. Però insomma bisogna dire la verità, c'è un campionato bellissimo con campioni grandissimi che ha messo in fila anche all'arrivo tutto sommato tre dei quattro che si erano giocati il titolo, insomma bene, bello, una bella stagione, bellissima. Fa rabbia che la Ferrari non sia stata protagonista nell'ultima gara, non che abbia perso secondo me, che non c'è mai stata nella lotta. E ovviamente gli ascoltatori al 349-238-6666 si schierano, come giusto che sia. C'è chi se la prende con Luca Cordero di Montezemolo, che goduria vederlo bastonato come un cane da Abu Dhabi. Vabbè, non esageriamo, caro Michele da Monza. Poi c'è Federico da Vigevano che parla di strategia inspiegabile, complimenti a Vettel, ma io penso che abbiamo regalato il mondiale a loro e quindi l'abbiamo perso noi. E poi Mattia De Bergamo che ci pone una domanda, io la giro a Carlo Vanzini, senza voler offendere il più bravo Domenicali, non pensate che alla Ferrari manchi uno Jean Todt, quindi sottintendendo, come dire, che manca un creatore di strategie all'altezza del ruolo, Carlo? No, perché le strategie le faceva Ross Brawn, casomai, non Jean Todt. Jean Todt certo aveva un ruolo importante che è quello di mantenere sotto pressione la squadra, quello che credo Stefano Domenicali fondamentalmente ha fatto nel corso della stagione, perché sono arrivati a giocarsela all'ultima gara. Poi le strategie al muretto non le fa lui, le fa la squadra degli ingegneri, quindi chiaramente si va a vedere, come se noi dicessimo perché non paga Moratti per le scelte, chiaramente in quel momento ci sono i tecnici che danno la strategia, analizzano i dati e decidono su come trasformare la corsa della Ferrari. Chiaramente noi secondo me dobbiamo aspettare un attimo a mente fredda, anzi lo dovrà fare la Ferrari, noi non possiamo assolutamente niente. Capisco l'umore dei tifosi, capisco soprattutto per quella che è la mentalità italiana, subito di buttare la croce addosso a qualcuno. Se oggi la Ferrari avesse vinto il titolo piloti adesso sarebbero tutti incredibilmente degli eroi. Erano dei pirla durante la stagione, sono diventati degli eroi durante la stagione per la rimonta, per aver preso la testa del mondiale. Non dimenticare, domenica scorsa l'avevamo detto, la Red Bull in mano al mondiale perché è la macchina più forte. Poi vorrei sottolineare due aspetti. Il primo, Webber ieri non è andato alla festa dei costruttori della Red Bull e si dice che possa arrivare addirittura in Ferrari, e secondo me oggi Webber ha fatto una gara stile Alonso 2007 per far perdere il compagno di squadra. Non è mai andato all'attacco di Fernando Alonso. Quando Alonso è andato dritto su Petrov, Webber in quel giro non è andato forte, quindi poteva passare Alonso, non l'ha passato. Insomma, c'è qualcosa anche nella Red Bull da vedere, e questo per dire dire un'altra cosa, che è vero, grandissima Red Bull, grandissimo Sebastian Vettel, adesso si dice hanno vinto loro a non fare giochi di squadra, ma attenzione, il gioco di squadra loro l'hanno fatto vincendolo, quello su Sebastian Vettel, perché hanno sempre favorito Vettel. Quando in Turchia c'è stato l'incidente Vettel, Webber aveva andato via radio il criptico messaggio a Vettel di passare Webber, poi i due si sono toccati. A Silverstone, quando avevano due ali nuove anteriori e Vettel ha danneggiato la sua durante le prove libere, hanno dato quella nuova di Webber a Vettel, tanto poi che Webber vincendo disse non male per il pilota numero due. Quindi il gioco di squadra in Red Bull l'hanno fatto, credendo sempre di più su Sebastian Vettel. Se i due si fossero trovati in situazioni inverse già nel corso della stagione, siamo sicuri che avrebbero fatto ancor più gioco di squadra su Sebastian Vettel. Però onore delle armi, onore a Newey che ha fatto delle macchine straordinarie, onore comunque a tutta una squadra che è riuscita a vincere alla fine, sfruttando questo difensivismo all'italiana, diciamo così, catenaccio all'italiana, che non ha pagato l'ultima gara della Ferrari. Sentiamo Montezemolo. Dire che siamo giù di morale, dire poco, perché credo che oggi sarebbe stata una gara in cui bastava tenere la posizione o anche pensare al quarto posto, e anche con un quarto posto noi avremmo vinto in ogni caso il mondiale, ce l'eravamo anche conquistato ieri in qualifica. Purtroppo è andata così e credo che durante la stagione ha avuto una macchina migliore della nostra, ha avuto molte opportunità e oggi gliene abbiamo un po' anche noi. In passato loro avevano favorito noi, oggi abbiamo un po' favoriti noi. Purtroppo non tutto è funzionato perfettamente, però devo anche dire che nessuno di voi qualche mese fa avrebbe mai pensato di partire all'ultima gara del mondiale in testa. Così Luca Cordero di Montezemolo. Riccardo da Milano ci ha chiamato all'800 2400 24. Buona domenica Riccardo, a te. Buona domenica. Dici tutto. Niente, penso che in effetti sia molto difficile fare un'analisi, diciamo, e dare colpe. Di sicuro credo che la cosa peggiore che è stata fatta è, diciamo, nel momento in cui Webber ha toccato il muretto, cioè fare una strategia soltanto marcando poi il pilota che di fatto in quel momento era fuori gara in sostanza, e poi chiaramente l'ingresso al safety car ha complicato notevolmente le cose, perché si sono trovate vetture più lente ma molto difficili da passare, e quindi la cosa purtroppo si è conclusa. Amarezza insomma anche da parte dei tifosi della Ferrari. Grazie Riccardo, buona domenica. Direttore Cavicchi, da dove deve ripartire la Ferrari adesso? Non abbiamo più in linea, ma lo ritroviamo Carlo Cavicchi. Allora Carlo Vanzini, secondo te la Ferrari da dove deve ripartire? Tu hai fatto il nome di Webber, l'hai buttato lì con grande, con estrema freddezza, ma insomma ci hai fatto, come dire, un pochino pensare. Pensi davvero che possa cambiare la coppiata dei piloti, fermo restando che ovviamente Alonso non si tocca, insomma Massa è a rischio o no per la prossima stagione secondo te, Carlo? Guarda, il mercato è assolutamente congelato perché le posizioni sono ferme, però devo dire che ultimamente sono cresciute molto le voci di un possibile annuncio di Mark Webber o di un addio alle competizioni, però questa versione lui l'ha già smentita, però sembra davvero uno ormai fuori da quella squadra, non sembra uno che ha ancora un anno di contratto come ha, e quindi le voci poi ovviamente confuse, impazzite, ma a volte con uno sfondo di verità, parlano di una possibile partenza di Felipe Massa, direzione addirittura si parla di Mercedes, però lì ci sono Rosberg e Schumacher, quindi bisogna vedere se si innesca veramente un qualcosa di clamoroso a catena. Vediamo. E si parla di Webber in Ferrari con l'approvazione di Fernando Alonso, però ripeto, sono le voci che girano, che si creano, che si generano, certo, anche in un momento di altissima tensione come è stata questo di questo finale, comunque che non dimenticheremo mai. Non c'è dubbio, un finale thrilling adeguato alla storia di questo mondiale di Formula 1 davvero splendido. Io voglio ringraziare ovviamente tutti gli ascoltatori di Sport e Motori, ringrazio in particolar modo Carlo Cavicchi, direttore di Quattro Ruote, buona domenica direttore, ci risentiamo presto, ciao. E ringrazio anche Carlo Vanzini, inviato di Sky Sport, ciao Carlo, a presto. Ciao, grazie, grazie a tutti voi. Sebastian Vettel, campione del mondo di Formula 1 2010. Noi ci ritroviamo ovviamente a parlare di Formula 1, ma non solo, anche e soprattutto di calcio, perché ci sono i risultati finali della giornata di Serie A con Carlo Genta in tempo di sport. Adesso le ultime notizie del giornale orario. sport e motori.